attenzione Gian Maria. Hola, hola, hola. Attenzione Gian Maria. Ehi Gian Maria, buonasera. Ehi, sono qua. Ehi Gian Maria. Guarda nemmeno il televisore. Guardando il televisore. Non ho capito nulla, Gian Maria. Certo. Ah, fasi prima appena te la patrice nuova. Giradischi. Vabbè, non stava funzionando. Te ne danno alcuni apparecchi, te ne danno tre, e alcuni apparecchi di asini tutti, ti ridasini. Purtroppo, non basta che sono italiano e boh, basta che si ribuirà un po'. Altoparlante minoreddo, no, altoparlante di giradischi piccolo però. Ti volevo chiedere Gio Marino, non è che c'è qualche cassa piccolina, no? Sai che è altoparlante, cassa piccolina. Certo, se c'è qualche altoparlante, go cassa piccolina però. Insomma, no, piccola. Casse di stereo di coso, però piccola mi interessava. Una. Vabbè, non ti preoccupare, stoppare un momento se vuoi trattenerci. Ehi, vabbè, ma non è urgente. Poi, no, sai, la certezza mi ha già bandato il bu. Non manda, mi si fa subito. Già lo gioco, è un pezzaretto, ho già abbaito che hanno visto come quello di liberare mani a cosa, ma me l'ha già abbaitato subito, ma non più di tanto. Preferisco guardarmi qualche film, qualche documentario. È buona, buona, chiara, è perfetta. Il segnale è buono. Io ce l'ho acceso, ce l'ho. Sette zero sei. No. C'ho un'altra frequenza ascoltando. Io ho un'altra frequenza ascoltando, non c'è manco il microfono attaccato lì. Insomma, va bene, è già troppo con il tutto, muro, che mi prende il vasiglia, va. Infatti è così, infatti è così, no, io ho preso e no, sono acceso, però non ho più nessuno. E la sera giù, se ne prende, la fioretta è brutta. Hey. purtroppo è così. Allora ce n'è gente che lo sta adoperando. Già ce n'è gente che lo sta adoperando. Certo, un bel di voce, un manzano, io non faccio nulla che fa. Che prima è buon gattugliato, a poi è buon qua, a costa. Ah, sento camionisti in coso, in VHF. Ah, sì, sì, è giambato doppure, è giambato, ancora è più basso, ma va se è più alto. Mi sentirei un po' arrugghito, a chi faccio un po' di mal di gola, mi sentirei un po' arrugghito. E questo mi sazza, la glicemia ristelli mi sazza, mi vedono del gabbo. Già lo conosco, sì, già lo conosco. Su quelli sono apparecchietti, li sento più chiara la voce. Invece in queste qua non è molto chiara la voce. Ecco cos'è. Io ci ho messo un coso, un altoparlante piccolino ci ho messo, e la voce l'ascolto ben chiara, cambia un pochettino il tono. No, anch'io qua c'ho una colonnina piccolina lo stesso, che era attaccata a un coso di dallo stereo del computer, andava attaccata, e io l'ho preso e l'ho attaccata qua. Esterna, a farla esterna, perché quella che ci avevo attaccata a quell'altro, l'ho staccata, la sto usando in questo, lo sto usando, che sto usando qua. sì, giù mai, senza fretta, non ti preoccupare, senza fretta. Ciao, ne ho fretta di coso. Ciao, già ascolto lo stesso io con questo. Gli angeli di Gavani, gli altri accudenti vi abbiamo con il sacro, quando devo grattare. Ehi, ehi, è così, anch'io quando non vado per quello lì, vado per quest'altro, e stacco da lì, faccio così, faccio. Ok, Giomari, ci sentiamo domani, ok, ciao Giomari.